Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria, una tappa della musica di domani. Storia che diceva che se pretendi troppo resti sola. Io non voglio mancazzo, solo stare bene un'ora o toccarti per sempre insieme sotto le lenzuola. Anche se poco dopo litighiamo a squarciagola. Questo è il bello di amarti. Io mi sento importante, se ti faccio il regalo apprezzi quello che ho da darti. Se ti dico ti amo e non ti compro coi contanti, no, non voglio che piangi. E non lo so quanto ci resta, ma vorrei tenerti qui. Scapperemo da una festa e da un noioso venerdì. Sai, con te io non mi annoio mai. Ti direi altre mille cose, ma tanto tu già le sai. Tu già le sai. Ti direi altre mille cose, ma tanto tu già le sai. Cerco un po' ovunque, quando giro di notte stiro dentro un bar qualunque. Quando scrivo una strofa ma non arrivo mal dunque, che poi non sono brava a dirti quel che penso sempre. Però mi vedi dentro e so che con te non mi serve. Questo è il bello di averti. Le mani nei capelli, sensazione di casa e la tranquillità che metti. Ci vogliamo con gli occhi e poi fanculo ai sentimenti. Non voglio che ti perdi. E non lo so quanto ci resta, ma vorrei tenerti qui. Scapperemo da una festa e da un noioso venerdì. Sai, con te io non mi annoio mai. Ti direi altre mille cose, ma tanto tu già le sai. Tu già le sai. Tu già le sai. Cose, ma tanto tu già le sai. Ed eccoci in onda di nuovo sui 103.1 con una nuova puntata di Fermata Provvisoria. Ciao a tutte e a tutti, sono sempre io Veronica e come avete potuto già sentire oggi sono partita subito con questa canzone dal nome Venerdì, che sicuramente molti di voi all'ascolto già conosceranno perché è di una giovanissima artista che sta spopolando praticamente ovunque, che tra pochissimo ospiteremo qui a Radio Città Fuscico, ovviamente virtualmente perché causa Covid non possiamo fare interviste in presenza, ma insomma ci faremo una bella chiacchierata al telefono. Dico ci faremo parlando al plurale perché vi anticipo che non sarò da sola, perché tra pochissimo mi raggiungerà Eleonora e insieme insomma intervisteremo questa giovanissima artista che adesso mi appresto a presentarvi. Per chi non avesse ancora capito, sto parlando di Arianna Del Giaccio, in arte Ariete, una ragazza giovanissima nata ad Anzio nel 2002. Lei inizia a suonare la chitarra all'età di 8 anni e il pianoforte pochissimi anni dopo, appassionandosi alla scrittura e componendo i primi pezzi. Ad agosto del 2019 è uscito su YouTube Quel Bar, il suo primo singolo, che supera prestissimo le 10.000 visite, uscendo poi il 15 novembre in tutti i digital store. A maggio del 2020 è uscito per Bomba Dischi il suo EP d'esordio dal nome Spazio, a cui è seguito un featuring con Psicologi sulla canzone Tatuaggi. E in autunno sono usciti due inediti, uno che avete appena ascoltato che si chiama Venerdì e un altro dal nome 18 anni che dà anche il titolo al suo nuovo progetto discografico. Il suo secondo EP infatti appunto dal nome 18 anni è uscito il 4 dicembre in tutti gli store digitali e Ariete in soli 6 mesi dall'esordio di Spazio si sta sempre più affermando come la nuova scoperta della nuova scena indipendente italiana grazie al suo talento cristallino e alla naturalezza con cui riesce a maneggiarlo. Come dicevo prima, questo EP è stato anticipato da Venerdì e 18 anni, che come racconta Ariete, questa canzone è una canzone generazionale che parla di se stessa e di quanto sia difficile essere giovani alcune volte. Leggo testuali parole che ha detto lei stessa. Dice: mi sono sempre sentita diversa, tutti intorno a me si realizzavano come volevano e poi c'ero io, un po' fuori dal mondo, con la voglia di dire fare qualcosa di più. L'obiettivo con questa canzone era di parlare di tutti coloro che si sentono come me, perché tante volte è anche bello avere 18 anni e sbagliare. Quindi diciamo che è un po' un messaggio di incoraggiamento verso la propria generazione, ma non solo, perché ovviamente poi nella musica chiunque si può ritrovare. E sicuramente questo nuovo progetto, questo nuovo lavoro di Ariete riuscirà, sta riuscendo tuttora, dato che è uscito da poche settimane, a rafforzare l'amore nei suoi confronti da parte di chi la segue già. Allora adesso, prima di collegarci direttamente con Ariete, dato che l'intervista di oggi, da come avrete capito, girerà attorno al suo nuovo progetto discografico, al suo nuovo EP dal nome 18 anni, ci ascoltiamo la seconda traccia del suo disco intitolata Freddo. Eccola! Dorme, giro in strada persa e non mi cerchi mai. Vivo giornate corte in cerca di risposte, ma mi lascio insonne e non so come stai. E l'aria si fa più pesante, non è per le sigarette. Credere che sarai mio è come credere al per sempre. Dai, lasciato a casa mia soltanto un paio di magliette che mi somigliano un po', perché oramai ti stanno sì. Le notti d'estate ricordano l'inverno, avevi il fuoco negli occhi e fuori faceva freddo. Io corro da te ma il mondo rimane fermo. T'ho persa da un pezzo e perderò un altro pezzo di me. Pezzo di te, ma siamo pezzi nascosti per le strade d'inverno. Quando aspetti la metro, mi dici che in mezzo a tutti i tuoi mostri c'è uno spazio stretto e non c'è posto per me. E ok, forse siamo giovani per la nostra età. Regole mi uccidono, che ci posso fa? Inseguo questi sogni che lascio a metà. Le notti d'estate ricordavano che d'inverno mio padre usciva col pianto. Iniziavo la scuola, ero già bocciato. Fanculo alla prof che mi stava sul cazzo. Le notti d'estate ricordano l'inverno. Avevi il fuoco negli occhi e fuori faceva freddo. Io corro da te ma il mondo rimane fermo. T'ho persa da un pezzo e perderò un altro pezzo di me. Che ci siamo fatte non mi sembra vero sia andata così. Affogo i miei rimpianti dentro un altro letto, ma da qualche mese è sempre lunedì. E questa era Freddo, seconda traccia del nuovo EP di Ariete, di cui parleremo tra pochissimo direttamente con lei, che sarà in collegamento telefonico con me ed Eleonora. Come dicevamo prima, Ariete, nome d'arte di Arianna, artista giovanissima che musicalmente parlando ha mosso i suoi primi passi nella sua cameretta e piano piano è riuscita ad uscire e farsi strada nel panorama della musica italiana. Arianna, come avrete potuto sentire, come tanti altri, segue un po' le orme di quelli che in un certo senso sono diventati colossi della musica indie italiana. Sto parlando ad esempio di Gazzelle, Calcutta, ma naturalmente a me non piace fare troppi paragoni. Ecco, si può dire che ci sono dei rimandi ben chiari ed evidenti, sia nei testi che nelle musiche, che oscillano dall'emo indie fino alla trap, ad esempio di Carl Brave. Però insomma, ogni artista poi è un mondo a parte, ogni artista ha un mondo da raccontare e quindi diciamo non voglio fare alcun tipo di paragone, ecco, semplicemente possiamo dire che si sentono un po' riecheggiare queste sonorità tipiche del mondo indie e quindi di cantautori indie che tutti noi conosciamo molto bene. In realtà però Ariete è un'artista sicuramente innovativa, anzi cercheremo di conoscerla meglio tramite la nostra intervista, quindi direi di non perdere ulteriore tempo e di collegarci direttamente con lei. Ciao Arianna. Ciao. Come stai? Io tutto a posto, che dite? Bene, dai. Bene, grazie. No, per quel che stiamo aspettando, dai. Senti, tu sei un'artista giovanissima, come appunto stavo accennando poco fa ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, che sta vivendo un'ascesa notevole nel mercato italiano. Come ti fa sentire tutto ciò? Ma guarda, sicuramente mi dà una grande responsabilità, perché comunque a 18 anni vivere una appunto una carriera in maniera molto veloce ha i suoi pro e i suoi contro, no? Quindi ovviamente mi sento molto responsabile, però mi capa anche tanto come idea, mi fa piacere che ci siano persone che mi ascoltano, che mi supportano, che mi stanno accanto in qualche modo. Quindi sì, assolutamente, è diciamo un po' un'arma a doppio taglio, però è indubbiamente una grande soddisfazione. Certo. Ciao Arianna, io sono Eleonora e volevo chiederti com'è il tuo rapporto con chi ti segue? Io ti seguo sui social, ma come lo vivi tu questo rapporto con i tuoi fan o comunque chi ti ama, ecco? Hai fatto bene a dire chi ti ama, perché comunque la parola fan nemmeno mi piace troppo, però guarda, io una cosa che ho sempre cercato di fare è rimanere presente sui social, no? Far vedere che comunque ci sono e che se comunque sono arrivata a questo punto è solamente grazie a loro, o meglio non solamente, però sono loro che mi ascoltano e mi supportano, quindi non capisco perché dovrei comportarmi in maniera sbagliata oppure sparire, ecco. Diciamo che proprio come nelle amicizie, ogni tanto faccio le dirette, li invito in diretta con me e appunto parlo un po' non solamente della musica ma anche un po' di tutto il resto. E comunque sì, mi piace essere presente sui social per le persone che mi seguono e che magari vogliono anche sapere che testa c'è, no, dietro la rete, non solamente sentire la mia musica. Certo, cerchi di rendere partecipi il più possibile. Esatto, sì, sarebbe quello il termine. Inoltre volevo chiederti, vista la situazione difficile che stiamo fronteggiando a causa della pandemia, come vivi il fatto di aver dovuto pubblicare nuova musica senza sapere quando questa incontrerà le persone che ti seguono, cioè senza sapere quando si potrà tornare a fare musica dal vivo? Ovviamente è molto disarmante come situazione, ci abbiamo pensato a lungo, insomma, con Bomba, Dischi, abbiamo detto beh, ma conviene, non conviene farlo. Alla fine, dato che è tutto così incerto, cioè domani potrebbero annunciare che sta andando tutto meglio, come tutto peggio, no? Quindi alla fine le canzoni erano pronte, alla fine il EP è andato bene nonostante la quarantena, quindi abbiamo detto va bene, dai, perché no? Pubblichiamo anche questo e vediamo come va. E alla fine fa comunque compagnia la musica, no? Poi spero di poter portare live presto tutto il lavoro che ho fatto. Certo, infatti a proposito volevo ricordare che il 4 dicembre è uscito il tuo secondo EP che si chiama appunto 18 anni e volevo chiederti in quanto tempo lo hai scritto, lo hai realizzato e che tipo di approccio creativo c'è stato dietro alla realizzazione di questo progetto? Allora, indubbiamente l'ho scritto in maniera molto diversa rispetto a Spazio, perché comunque Spazio era una raccolta di canzoni che io già avevo quasi tutte, e comunque l'ho scritta in maniera amatoriale, in cameretta, con la chitarra, il pianoforte, l'ho registrato pure con l'iPhone e le cuffiette, perché era il periodo in cui non avevamo, io ancora non avevo un computer, non avevo un microfono, una scheda audio, quindi non potevo nemmeno registrare le canzoni. Indubbiamente questo qui l'ho scritto in maniera molto più professionale, quindi in studio, mi sono stata tanto con, insomma, persone che, oltre a essere tra molti virgolette appunto colleghi, sono anche amici, quindi magari Marco di Psicologi, come Danny, che è, insomma, è tutta gente della famiglia di Bomba, no? E quindi l'approccio è stato indubbiamente diverso, però questo disco, diciamo, che l'ho scritto in generale, penso nel giro di, non so, di 3 mesi, dell'estate, sì. Ma più che l'estate, forse anche fine estate, tutto verso settembre. L'unica canzone che avevo già scritto in quarantena, quindi quella di aprile, era Notta d'Ascia, l'unico pezzo che ho scritto separato dall'estate, tutto il resto. Vorrei essere sincera con quelli che hanno creduto in me, a cui ho sbattuto una porta in faccia. Che notte taccia. Dai, non farmi quella faccia. Dai, non serve che ti piaccia. Il mio modo di fare o il mio modo di dire, che se penso un po' a te mi viene in mente il mio male. Mi sono perso un mare di persone, solo per un mare di parole, solo per la voglia di sparire e solo per paura di soffrire. Non dirmi che ti manco, che io non piango e non piangerò per te. Porto i pensieri a largo, che li detesto e detesto pure me. Vorrei essere sincera con quelli che hanno creduto in me, ho sbattuto una porta in faccia. Che notte taccia. Vorrei essere sincera con quelli che hanno creduto in me, ho sbattuto una porta in faccia. Che notte taccia. Dai, ma cosa devo dirti? Sai, non voglio più mentirti e non voglio spiegare, voglio stare da sola. Se non fosse per te non ci sarebbe sta strofa. Mi sono persa dentro un tuo vestito, che ormai mi sta stretto da far schifo. L'ho tenuto addosso fino ad ora, solo per far parte di qualcosa. Non dirmi che ti manco, che io non piango e non piangerò per te. Porto i pensieri a largo, che li detesto e detesto pure me. Vorrei essere sincera con quelli che hanno creduto in me, ho sbattuto una porta in faccia. Che notte taccia. Vorrei essere sincera con quelli che hanno creduto in me, ho sbattuto una porta in faccia. Che notte taccia. Le notti più buie le passo sempre da sola e spero di trovare pace sotto le lenzuola. Io non voglio innamorarmi, rimanere sobria, poi non trovo le parole, ma chi cerca trova. Ma tu non dirmi che ti manco, le tue parole non le cerco più. Tu non dirmi che ti manco, che io non piango, che io non piango, no. Vorrei essere sincera con quelli che hanno creduto in me, ho sbattuto una porta in faccia. Che notte taccia. Dai, non farmi quella faccia. Dai, non farmi quella faccia. E dai, non farmi quella faccia. Che notte taccia. Infatti la prossima domanda si collega un po' anche alla risposta che tu hai già dato, perché questi due EP sono stati realizzati a poca distanza l'uno dall'altro, quindi facendo riferimento a questi due progetti musicali vorrei chiederti se ti senti cresciuta. Beh, indubbiamente è cresciuta a livello di suono, di concetto, di quello che ho in testa, indubbiamente, però appunto cerco di rimanere sempre saldo un po' a quello che ero e che voglio continuare a essere per un po'. Sicuramente a livello proprio di progetto e di sonorità e tutto tutto il resto mi sento cresciuta, però sempre diciamo un po' fedele a quello che sono sempre stata. Inoltre 18 anni è anche il titolo del tuo ultimo singolo che tra pochissimo trasmetteremo sulle nostre frequenze ed è uscito anche il videoclip, quindi ne approfitto anche per chiederti se hai intenzione di realizzare altri videoclip oltre a quello di 18 anni. E per il momento no, non è previsto, però non lo so, vedremo insomma. Non si sa mai insomma. Esatto. E cambiando un po' domande ti volevo chiedere, ci sono artisti a cui ti ispiri? Ovviamente sì, cioè solamente prettamente solo a livello appunto di musica, della musica in mia canzone. Io, mio padre è sempre stato in fissa con De Gregori, Dalla, Cuccini, quindi soprattutto Cuccini a livello musicale mi ha formata molto, però di base invece i testi appunto che scrivo molte volte li scrivo solamente in base alla mia ispirazione, non ho mai preso da qualcun altro, diciamo così. Certo, e ti volevo chiedere, per il futuro hai intenzione di realizzare un album che magari sarà composto da più tracce o in generale hai già qualche idea, qualche cosa in serbo per il futuro? Sì, ci sto anche già lavorando in realtà, io poi scrivo sempre, non sono una che si ferma, che deve scrivere per forza durante la session in studio, cioè io proprio scrivo sempre quando mi pare, come mi pare, anche adesso ad esempio sono in studio, indubbiamente sarà un lavoro molto più pensato, ci lavorerò su penso tutta la prima metà dell'anno prossimo, però sì. Progetto è un disco. Allora, in attesa di sentire nuove canzoni e nuovi progetti, io ed Eleonora ti ringraziamo per la disponibilità. Grazie a voi. E ti facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro. Credi, grazie mille, ci sentiamo presto. E adesso, nella speranza di risentirci presto, ci ascoltiamo il tuo singolo di cui abbiamo parlato fino a poco fa, che dà il nome all'EP. Questa è 18 anni. Ciao. Ciao. Ciao, grazie a voi. Hai 18 anni, non sai dove aggrapparti, non sai con chi parlare, non sai di cosa farti, che ci vogliamo fare? Mi chiedi venerdì? Ho 18 anni e non sono come gli altri, non cerco un'università ma cerco di calmarmi, e che ci posso fare? Forse vivrò così. Amsterdam e le sigarette, i viaggi in strada con gli amici di sempre, ma nessuno ha preso la patente, ma nessuno ha più concluso niente. E se passassi di qua non mi dispiacerebbe ricordare la scuola e ricordare le feste. Se passassi di qua non mi dispiacerebbe fare finta che non sia successo niente. Liceo classico e poi belle arti, scendi con i tuoi amici più grandi, ma dei tuoi problemi non ne parli. Ho fatto tanti sbagli, tu invece hai 18 anni e non sai relazionarti. Tra feste nei locali ed alcolici coi calmanti, ci vogliamo fare? Chieda agli amici tuoi. Ho 18 anni e non sono come gli altri, ma non sai quante volte ci hanno provato a cambiarmi, e che ci posso fare se non faccio per voi? Ci rivedremo da grandi quando saremo stanchi, sì ci rivedremo. Ci rivedremo da grandi, da grandi, da grandi, se ci arriveremo. Ci rivedremo da grandi quando saremo stanchi, sì ci rivedremo. Ci rivedremo da grandi, da grandi, da grandi, se ci arriveremo. Ho 18 anni e non sono come gli altri, ma non sai quante volte ci hanno provato a cambiarmi, e che ci posso fare? Non faccio per voi. Ho 18 anni e non sono come gli altri, ma non sai quante volte ci hanno provato a cambiarmi, e che ci posso fare se non faccio per voi. Ho 18 anni.